Allora, buonasera a tutti sulle onde di Radio Alma 101.9, mentre sono le 21:03 minuti di questo 9 novembre 2015 e io sono in compagnia di Anna Maria. Ciao Anna Maria. Speravate di non sentirmi stasera. Ciao Anna Maria, come Ciao stai? Anna, bene, tu? Bene, grazie. E abbiamo anche un ospite, vogliamo presentarlo subito, si chiama Alessandro. Buonasera a tutti. Ecco, ogni tanto anche una voce maschile, che dice Anna Eh sì, Maria? perché qui con le statistiche andiamo malissimo, Sì, infatti, troppe tutte donne. donne, tutte donne. Oggi ne ho acchiappato uno finalmente e me lo sono portato in radio. Allora. No, a dire il vero mi ha pagato per stare qua, eh? Ah. Quindi se qualcuno è bisognoso di soldi, Anna Maria paga per venire in radio, quindi venite, Ma venite. non per dire qualsiasi cosa, attenzione, perché stasera ti tocca, Alessandro. Allora, Anna Maria, di cosa parliamo oggi? Parliamo di un tema assolutamente originalissimo. Parliamo dell'autunno, per esempio. Che dici? Ma veramente? E perché? Come Non mai? succede mai. No, veramente non è mai successo. Soprattutto siamo estremamente originali con questo argomento. No, e mi sembra un periodo giusto. Poi c'è questo clima in questo periodo, non so, propenso. Non so, avete fatto un giro per i parchi questi giorni? Sono fantastici. Sono bellissimi, certo. Bellissimi, ci sono dei colori incredibili. Sarebbe una trasmissione da mostrare questa, non da parlare, Abbiamo perché sbagliato mestiere. infatti ci voleva la televisione. E No, meglio di vabbè. no, meglio di no. Rimaniamo sull'audio. Il nostro scopo stasera è portare sulle onde radio le emozioni e i colori che stanno nell'autunno anche a chi non li può vedere. Allora, Vero. I nostri radioascoltatori, non potete vedere Alessandro. In Ed è realtà ci sta questa. prendendo tutti in giro. No, il fatto che non mi potete vedere e sentire sulla mia voce, già questo è una nota positiva nei vostri confronti. Quindi, come diceva tipo Albertino, il fratello di Linus, il famoso DJ, ma perché non fai televisione come tuo fratello? Lui mi diceva, ma mi hai visto in faccia? È molto meglio che io faccia radio che televisione. E quindi ha continuato così per tutta una vita, è diventato famoso in questo senso. Questo mi fa pensare che forse è meglio che non ci mostriamo? Che dici, Rosanna? Ah, sì, lasciamo questo alone di mistero. In fondo, perché no? È meglio rimanere così. Riesci Rimanere su sempre ad essere Radio positiva. Alma 101.9 con I colori dell'anima. E infatti questo titolo lo trovo molto appropriato, I colori dell'autunno, che neanche possiamo dire che colore è, perché i colori dell'autunno sono tantissimi. Tu, Anna Maria, a quale colore l'associ l'autunno? Beh, lo associo a tutti i colori caldi, dall'arancio al marrone, al rosso, giallo anche. Sì, ma c'è anche un po', comunque persiste anche un po' di verde. È un po' veramente un miscuglio incredibile. Forse l'azzurro manca, ma a parte quello, secondo me ci sono E tutti. stranamente, ultimamente abbiamo avuto anche un pochino di cielo azzurro qui a Bruxelles, eh? Quindi Infatti, non che ci non lamentiamo, guasta, che non guasta. E no, no. secondo me questa atmosfera è dovuta anche dal clima che non è il solito, Certo, onestamente. certo. Allora, quindi cercheremo questa sera di farvi pensare appunto a tutti questi colori che ovviamente anche voi comunque state vivendo, sia che viviate qui a Bruxelles, ma che siate anche altrove e sicuramente nella campagna, sulle montagne, probabilmente questi colori si percepiscono ancora di più. Però Anna Maria mi ha detto che, di Alessandro che novembre è caratteristico anche per un altro fatto che riguarda gli uomini. Sì, a dire il vero non è strettamente collegato ai colori, anche se di questa, diciamo così, façon ci possono essere differenti colori. Se uniamo novembre a moustache, viene fuori Movember, che è il mese di novembre, che è dedicato come prevenzione per il cancro alla prostata, in cui i maschietti in questo caso si fanno crescere i baffi, i moustache. Quindi noi dove lavoriamo abbiamo costruito il nostro piccolo team di gente più o meno pelosa sulla faccia. E adesso ci stiamo facendo crescere pian pianino i nostri piccoli baffetti. Anche Rosanna, non ti dico che spettacolo. Ah sì, tutti così sono? Siamo la metà dei maschi della, diciamo così, della nostra unità dove lavoriamo hanno aderito a questa iniziativa, quindi si vedono anche delle pelurie facciali che fanno piuttosto divertire, soprattutto per chi è glabro già di natura, quindi immagina quei quattro peli che possono crescere. Ce ne ha quattro e li chiama per nome. Sì. E poi il 1° dicembre si taglia tutto. Sì, dire il vero, il 1° dicembre bisogna, questa anche è una raccolta fondi, quindi se qualcuno volesse contribuire c'è il movimento Movember, quindi si possono fornire dei soldi, il vostro conquibus. Se volete, il 1° dicembre si fa la foto del team tutti assieme e poi si taglia, o chi vuole proseguire a far crescere questi... questi mustache, questi grossi baffi, può continuare a farlo, noi siamo liberi, aperti a tutto. Ma tu è la prima volta che lo fai o l'hai fatto anche altre volte? Io è la prima volta che lo sento dire, perciò non conoscevo di questo movimento. Ma io alterno peluria facciale di diversa figura, quindi pizzetto, barba, baffi, a seconda della stagione, a seconda del mood. Però avevo visto sul sito dell'unità dove lavoravo che l'anno precedente avevano fatto un'iniziativa del genere e ho detto, beh, perché non proseguire, mi sembra carino. E allora ho detto, beh, perché non si tratta soltanto di tagliare, di radermi altre parti del corpo e non appena quella, la parte appena sotto il naso. Allora, torniamo ai nostri colori dell'autunno. Anna Maria, ma li stiamo perdendo questi colori dell'autunno? Li stiamo perdendo? Forse li stiamo perdendo. Infatti, leggo qualcosa che è stato riportato da alcuni articoli. Mi sembra che gli studiosi impegnati a individuare le molteplici conseguenze del cambiamento climatico si stanno concentrando su un nuovo tema, quelle delle metamorfosi delle specie vegetali. È perché abbiamo anche questo problema adesso, che si assume in una questione a suo modo affascinante. L'aumento globale delle temperature rischia di cancellare le tante tonalità tipiche della stagione. Lo immaginavi? No, non lo immaginavo. Il giallo, l'arancione, il rosso delle foglie, che associamo al trimestre che fa da ponte tra l'estate e l'inverno, sono diventati meno marcati rispetto al recente passato e potrebbero svanire quasi completamente già nei prossimi decenni, se non riusciremo a porre un freno all'impennata delle temperature. Quindi è una questione che dall'estetica trapassa nei delicati equilibri degli ecosistemi e dell'ambiente in generale. E c'entrano anche i pesticidi con questo? Bisogna vedere da che angolo prendiamo in considerazione questo approccio. Sicuramente i pesticidi servono per avere alimenti più sicuri da un certo punto di vista, però secondo alcuni studiosi questi possono, chiamiamolo così, uccidere la biodiversità e quindi anche questo può avere una conseguenza sulla tutta la nostra pletora vegetale che abbiamo attorno a noi. Io dal mio punto di vista, ma è quello di tecnologo alimentare, dico che è sempre meglio avere un cibo più sicuro e magari una certa varietà anche ampia, piuttosto che avere contaminanti naturali che avvengono nel prodotto di trasformazione e di crescita degli alimenti così come sono. Quindi, perché no? Però è interessante questo discorso. Cioè, noi associamo sempre i pesticidi con delle cose negative, ma in fondo se ci sono, un motivo ci sarà. Certo. No, vabbè, probabilmente... ne è stato fatto anche in periodi storici recenti un uso incontrollato e credo anche che, almeno mi ricordo un altro ospite che avevamo avuto qualche anno fa, diceva per esempio che i cinesi hanno preso dei terreni in Africa, hanno coltivato in modo... estremamente proprio sfruttando la terra e utilizzando pesticidi in grande quantità, quindi non dico che questo venga fatto sempre, però ci sono delle situazioni ancora oggi estreme che quindi possono diciamo far vivere in modo negativo i pesticidi, però sì, i pesticidi per fortuna che ci sono. Perché proprio delle olive di cui mi chiedevi... Esatto, io qua volevo arrivare. L'anno scorso effettivamente nella mia regione, ma anche nel sud dell'Italia in genere, molte olive sono state colpite da parassiti di vario genere e non abbiamo potuto raccogliere le olive. Quindi quest'anno, già molti mesi fa, abbiamo dovuto fare un trattamento per... per fare in modo, insomma, che non si ripetesse di nuovo la stessa malattia. Quindi, quest'anno hai avuto le olive. Abbiamo avuto le olive e quindi l'olio. Ah. E sono andata a fare la raccolta. Ebbene sì, il weekend scorso. Ecco, confessa. Sì, no. E anche quello, insomma, è essere a contatto con la natura, con la campagna. È faticoso, però, insomma, ti dà anche una grande soddisfazione questa, il momento della raccolta. Allora, io proporrei un brano musicale, un brano che ci ha consigliato Alessandro, e magari lo ascoltiamo prima e poi se vuoi, anche non è necessario, se vuoi lo commenti, ma comunque ci ritroviamo fra pochi minuti. Mi raccomando, rimanete con I colori dell'anima e a dopo. Alessandro, adesso ci spieghi perché hai scelto questa canzone. Intanto è una canzone quasi autobiografica, perché è stata scritta dal mio amico Max Pezzali, che abita in provincia, abita a Pavia. Io ho risieduto per diversi anni, ho avuto sempre lo stesso numero civico per circa 30 anni in provincia di Pavia, quindi è come se l'avesse scritta quasi per me questa canzone. Addirittura. E io abitavo, questo è quello che mi piace pensare. Ma intanto è perché io vengo da un piccolo paesino del nord. Come non ce ne eravamo accorti dall'accento. Ma se lo camuffo perfettamente, prima di tutto. E nel mio piccolo paesino ci sono tre bar in croce, quindi dopo che hai girati tutti e tre in una sera non sai cos'altro da fare. Quindi se hai la macchina, prendi la macchina con i tuoi bei amici sfigati, cosa fai? Cerchi la festa. La festa è di solito in un paesino ancora più piccolo, ancora più lontano e ancora più remoto. Non mi dici niente di nuovo, perché vengo anch'io da un paesino piccolo piccolo. E quindi vai, questo paesino piccolo, anzi, prima tu cerchi di trovarlo, perché sai, le prime armi, la prima volta che utilizzi la macchina, la sera c'hai 18-19 anni, non sai ovviamente dove devi andare, magari ti capita pure che c'è la nebbia, come spesso succede nel nord, e all'epoca, quando noi avevamo 18 anni, non c'era il GPS, non c'era il tampon, non c'erano tutti questi aggeggi tecnologici, quindi ti fidavi del tuo sesto senso di orientamento e un po' dei cartelli che ogni tanto venivano anche rimossi, E cercavi questa famosissima festa dove, alla quale arrivavi quasi alla fine, perché ti eri perso nelle campagne della Lomellina nel mentre, però alla fine arrivavi e ti divertivi lo stesso, perché l'importante era il viaggio che tu facevi con i tuoi amici per arrivare alla festa, non la festa stessa. Esatto, le risate che si fanno in macchina. Infatti, no, è bello questo concetto che uno si diverte già solo nel viaggio. Ma a te non è mai capitato di fare queste serate interminabili nelle campagne in macchina? Sì, qualche volta sì, interminabili no, però che sono durate un po' sì, è e vero. Non si trovava mai dove si doveva arrivare. E poi quando trovavi magari non trovavi parcheggio, perché essendo un posto piccolo non c'erano posti per le macchine, quindi comunque c'era un problema anche alla fine. Senza GPS, siamo sopravvissuti senza GPS, infatti, ma dico, senza smartphone, senza telefoni proprio, cellulari. Certo. Eppure certo. Ci siamo divertiti lo stesso, ma alla grande. Allora, Anna Maria, cosa ci vuoi dire dei colori dell'autunno, che è il tema di questa sera? Allora, io in realtà mi è stata suggerita una poesia che non vuol far torto a nessuna stagione, però mi sembrava bella, la vorrei leggere. È una poesia di Eugenio Montale. Prego. Lo posso fare? Mi autorizzate? Ti autorizziamo. Prego. Allora ve la leggo. Il mio sogno non è le quattro stagioni. Non nell'inverno, che spinge accanto a stanchi termosifoni e spruzza di ghiaccioli i capelli già grigi, e non nei falò accesi nelle periferie delle pandemie erranti, non nel fumo d'inverno che lambisce i cornicioni e neppure nell'albero di Natale che sopravvive forse solo nelle prigioni. Il mio sogno non è nella primavera, l'età di cui ci parlano antichi fabulari, e non nelle ramaglie che stentano metter piume, non nel tinullo strido della marmotta quando s'affaccia dal suo buco, e neanche nello schiudersi delle osterie e dei crotti, nell'illusione che ormai più non piova o pioverà forse altrove, chissà dove. Il mio sogno non è nell'estate, nevrotica di falsi miraggi e lunazioni di malaugurio, nel fantoccio nero dello spaventapasseri e nel reticolato del tramaglio squarciato dai delfini, non nei barbagli afosi dei suoi mattini e non nelle subacquee peregrinazioni di chi affonda con sé e col suo passato. Il mio sogno non è nell'autunno, fumicoso, avvinato, rivenibile solo nei calendari o nelle fiere dei Barbanera, non nelle sue nere fulminee sere, nelle processioni vendimmiali o liturgiche, nel grido dei pavoni, nel giro dei frantoi, nell'intasarsi delle larve e del ghiro. Il mio sogno non sorge mai dal grembo delle stagioni, ma nell'intemporaneo che vive dove muoiono le ragioni e Dio sa se era tempo o se era inutile. E questa è la poesia. Non è dell'autunno, ma è di tutte le stagioni, anzi sì. Di nessuna stagione. Esatto. Bella, e comunque bello Montale in genere, che spesso con le sue anche poesie molto brevi sa dire tante cose. Allora, io proporrei ancora un brano musicale, ci ritroviamo quindi fra pochi minuti e continueremo a parlare dei colori dell'autunno qui su Radio Alma 101.9. Allora, Anna Maria, dove siamo con l'autunno? Le foglie di tutti i colori e poi a cosa ti fa pensare l'autunno? Mi fa pensare al camino acceso. A me fa pensare alle castagne. Buone le castagne, anche a me piacciono le castagne. Le hai mai mangiate cotte direttamente sulla cenere? Sì, quando ero piccola. Si fa ancora. Si fa? Nel tuo paesino? Sì, da noi si fa ancora. Uh-huh. Da noi quasi ogni casa ha un caminetto che c'è chi lo adibisce solo al calore estetico e c'è chi ci cucina proprio ancora. E poi chiaramente l'autunno è anche moda, no Alessandro? Certo, riferendomi alla canzone Maschi innamorati, direi maschi innamorati di chi o di cosa? Delle unghie ad esempio. Perché se passiamo dal cammino di Anna Maria al Giappone, sì, ad esempio, uno ha nell'immaginario collettivo il Giappone, potrebbe essere quello che vediamo in molti film, i mandorli, quelli in fiore, con tutti i weibei, colori rosa, ma in questa stagione... I ciliegi giapponesi sono famosi, infatti c'è gente che va a vederli a marzo. Esatto, questa è una stagione, invece ci sono altre stagioni che sono, potrebbero essere anche prettamente giapponesi e non prettamente legati agli alberi, quindi alla flora, ma alla fauna, sia animale che è umana, perché in Giappone c'è una nuova tendenza. Questa nuova tendenza è che pittare le unghie dei vostri amici felini o canini secondo i colori della mantellina o del guinzaglio. Mamma mia! E il rapporto con l'autunno è che si utilizzano colori che vanno dal rosa al bordeaux al marrone, queste nuance un po' così. E quindi, perché no, insomma, voglio dire, è una tendenza che potremmo... Abbiamo portato tante cose dall'America, dall'Africa, perché non importare anche le unghie pittate di colori dal Giappone? Senti, io sono un'appassionata di smalto, lo sanno tutti. Oggi ho avuto un colore nuovo, sono felicissima. Lo sanno tutti. Lo sanno tutti, vero, ormai. Però mai avrei pensato di mettere lo smalto al cane. Prima di tutto, mai avuto un cane? Sì, ne ho avuti tanti di cani. Ma mai avrei sprecato il mio smalto per il mio cane. Hai sempre sbagliato. Se fossi andata a vivere in Giappone prima, quest'ora il tuo cane sarebbe pittato. Ho sbagliato tutto, lo sapevo. E tu ce l'hai il cane, Alessandro? Io l'ho avuto quando ero piccolo. Mio padre aveva i cani e poi non ne ho mai più avuti. E quindi non hai messo lo smalto al cane? Beh, ma io sono uomo, io non mi metto lo smalto. E non lo metto al cane. Io il cane, e questo lo educo. Ce lo dici a noi. Io il cane lo educo, così sta al mio fianco, magari un bel cane da guardia, però le unghie non gliele pitto. Ma dai, per farlo più cattivo le pitti di nero magari. Sì, faccio il cane dark, sì. Dai, carino. Sì, poi magari fa fuori di cervello e mazzanna un giorno. No. Perché l'ho tutto vestito di nero. No, non credo che sarebbe così cattivo il tuo cane, dai. Ma comunque a proposito di Giappone, ci sono molti posti dove effettivamente ci sono, che sono da visitare, vale la pena, perché ci sono delle città particolarmente conosciute, poiché hanno delle decorazioni, diciamo, fuori dal normale. Per esempio, Anna Maria, tu ne conosci? Allora, personalmente ovviamente nessuno, però cerco di essere preparata. E quindi siccome il Giappone è un paese lungo e stretto, praticamente la stagione per ammirare i colori dell'autunno si passa dal nord a sud in diversi periodi dell'anno. E mi segnalano che i posti da vedere per godere di questi belli colori sono la città di Nikko, Kamakura, Rikugien, non so neanche se si pronuncia così. Poi c'è il monte Takao, che si trova a circa 50 minuti da Tokyo, di treno. E poi c'è Hakone. Ma qualcuno di voi li conosce questi posti? Io, a dire il vero, non mi sono mai... Più a est che sono andato è stato Treviso e la Croazia, quindi... Quindi di là, ma forse ci sono i nostri amici ascoltatori, se vogliono telefonare, tanto per dirci se si dice Rikugien o Rikugen o Rikugien, non lo sappiamo. Ah, non lo sapremo mai. Ma gli dovremmo anche dire il telefono, no? Il nostro telefono è 02-345-2656, perché ci volesse telefonare. Amici giapponesi, cinesi, quello che volete, diteci come... Giappocinesi va bene tutto. Esatto. Anzi, comunque sì, sono dei luoghi suggestivi, non li conosciamo, però sono dei luoghi dove si può arrivare facilmente da Tokyo, quindi l'importante è andare a Tokyo. Trovate il mezzo qualsiasi per arrivare a Tokyo, poi di lì 2 ore di treno di qua, 1 ora di treno di là, ci si arriva. No, non c'entra niente, ma ieri stavo vedendo su Rai 1 la trasmissione su Rai 3 che c'è la sera, Che tempo che fa, e tra le altre cose parlavano di Expo, dove, come penso avrete sentito, al Giappone era uno dei paesi dove si faceva più coda, quindi si faceva spesso. Io non sono riuscita neanche ad arrivarci. Ma è normale, perché dovevi essere proprio, dovevi avere una grande pazienza, cioè ci sono stati dei giorni in cui ci volevano 8 ore di fila, e allora il commento era: ma uno non faceva prima a prendere l'aereo ed andare direttamente in Giappone, perché veramente Ad esempio, Anna Maria, sei stata quello di Dubai? Di Padiglione, quando sei andata all'Expo? Io sono andata all'Expo, giusto per dire che sono andata all'Expo, perché non sono riuscita ad entrare da nessuna parte. Perché? È stato ingestibile. Perché il tempo medio d'attesa per il Padiglione di Dubai era 6 ore, che è esattamente lo stesso tempo di volo che uno ci mette da Milano a Malpensa ad atterrare a Dubai. Allora, nella trasmissione delle Iene, cosa hanno fatto? Un inviato è stato in fila 6 ore. A quanto pare si è fatto pure i suoi bisogni addosso pur di non lasciare la fila. E un altro inviato ha preso l'aereo ed è andato a Dubai. E quando quello che è arrivato a Dubai gli ha telefonato, gli ha detto: io sono arrivato, lui non era ancora entrato. Non nel era paese. Neanche entrato. Mamma mitico. Mia. Mamma mia. Mitico. Vabbè, quindi forse magari in Giappone con 8 ore non ci si arriva, ma insomma, per dire che veramente così. Insomma, è stato veramente penoso. Beh, il caso dell'Expo è una cosa inimmaginabile, perché questo evento che poteva essere, che è bellissimo, che è stato bellissimo comunque, io ho trovato che mi hanno fatto dei lavori incredibili, ma non avrebbero mai dovuto permettere a tanta gente contemporaneamente di entrare. Certo, non era certo. Proprio possibile. Certo, però non so, ammettiamo che eri tu che gestivi Expo, che cosa avresti fatto? Avrei messo un limite di entrate. Ma infatti, e questo è strano, perché i biglietti a data aperta, no? Poi tu dovevi confermare la data. In quel momento ti dovevano dire: guarda che non si può. Esatto. E però probabilmente non l'hanno detto, hanno permesso a tutti di andare. Questo deve essere stato. Sì, deve essere stato questo il tipo di politica che poi comunque alla fine... io trovo che sia stato un successo, perché comunque l'ho trovata bellissima, sì, nonostante certo, non abbia visto assolutamente niente. Infatti. Però mi sono anche posta il problema: ops, se succede qualcosa qui, certo, insomma, a livello di sicurezza forse. Ma neanche il padiglione del Belgio, ma anche due fritte disegnate. Ma pure lì c'era la fila. Fuori. Io ho fatto le foto c'era da fuori. C'era una fila per mangiare le fritte, mamma neanche mia. Le fritte. Sì. Io ho fatto, no, però ho fatto la fila al stand della Perugina per il gelato. Ah, vabbè. Mezz'ora. Mezz'ora, sono mamma stata mia, fortunata. Pure... Mezz'ora per un gelato. Però era il gelato più buono che tu abbia mai mangiato in vita tua, immagino. Guarda, anche se fosse stato cattivo, avrei mangiato fino all'ultimo pezzettino. Allora, posso ritornare nella mia regione, in Abruzzo? Assolutamente. Allora, stiamo parlando dei colori dell'autunno, e naturalmente l'autunno fa pensare anche un po' così, da un senso di malinconia, perché pensiamo che sono finita l'estate, è finito il sole, le vacanze, però andate in Abruzzo e capirete che non è così, perché l'autunno in Abruzzo è una girandola di colori che conquista con il suo splendore. È sufficiente fare una passeggiata in uno dei tantissimi boschi che ricoprono questa regione per essere circondati da 1000 sfumature di rosso e di giallo che abbagliano. Anche le chiazze marroni, che sono indicatrici dell'avvicinarsi dell'inverno, sono in armonia con gli altri colori più vivaci. Nei prati poi fanno capolino decine di diverse specie di funghi, che sembra ci chiamino per essere raccolti e assaporati, perché in effetti in autunno ci sono anche i funghi oltre alle castagne. Ma attenzione, spesso i funghi più accattivanti come sono, Anna Maria? Sono velenosi. Sono velenosi, infatti. Ah, io non saprei distinguerli. No, infatti, io ci andrei soltanto con qualcuno esperto. Quindi anche lì per i funghi bisogna fare molta attenzione. E sulle rocce invece si comincia a vedere il verdissimo muschio, che ravviva ancora di più l'ambiente, perché oltretutto è un verde particolarmente brillante e fa pensare già al presepe, a chi lo fa. E che dire delle castagne, l'abbiamo già detto, ma sono il vero simbolo dell'autunno, vedi, mi piacciono, perché sono il simbolo dell'autunno. Il loro colore, il loro profumo delizioso, il sapore fragrante, sono la vera parola d'ordine dell'autunno. E se volete vedere delle belle immagini autunnali abruzzesi, vi invito ad andare al sito www.abruzzoparchi.it/collane/autunno. Ecco, perché insomma non possiamo mostrarvi le immagini, ma appunto ve le potete vedere sul sito web. Dunque io proporrei ancora una pausa musicale, ci ritroviamo fra pochi minuti sempre con i colori dell'anima, oggi con i colori dell'autunno, e a dopo. Allora, rieccoci alla nostra diretta dopo questa piccola interruzione musicale, mentre sono le 21:43 e piano piano ci avviciniamo alla fine della trasmissione di oggi, 9 novembre 2015, dedicata ai colori dell'autunno, visto che siamo in pieno autunno. Ce ne siamo accorti anche perché è cambiata l'ora, le giornate sono diventate piccole piccole. Però abbiamo dormito anche un po' di più. Oddio, sì. È vero, almeno questo vantaggio c'è. Il primo giorno, dopodiché... Basta, è finito tutto. Esatto, però ci illude un pochino, no? Che ci sia qualcosa di positivo, tutto certo, sommato. Certo, è vero. Invece gli altri giorni abbiamo lavorato un'ora di più e dormito uguale. Perché tanto ci siamo già aggiustati, vero? Certo, verissimo. Verissimo. Allora, qualche poesia? Sì, ne ho qualcuna breve, magari così... Ve la leggo, ora ve ne leggo una di Quasimodo. Ora l'autunno guasta il verde ai colli, o miei dolci animali. Ancora odremo, prima di notte, il richiamo della grigia pianura che va incontro a quel rumore alto di mare, e l'odore di legno alla pioggia, l'odore delle tane, come vivo qui fra le case, fra gli uomini, o miei dolci animali. Qui sono stata veloce, eh? Questa era una poesia per bambini, perché giustamente i bambini non è che possono imparare delle poesie lunghe. No, io ero disastrosa per le poesie, avevo una memoria pessima. Ma a parte le poesie, Alessandro, cosa vogliamo dire ancora dell'autunno? Beh, direi che innanzitutto ci siamo dimenticati di dire perché ci sono questi colori in autunno, perché le foglie cadono e perché dal verde si gira verso il marrone, beige o il giallo. Perché intanto come tutti nei cicli vitali, sia umani che anche vegetali, la clorofilla, che è quella che dona il colore verde alle piante, lascia il passo ai carotenoidi e agli antociani che sono presenti nelle piante. Tanto per darvi un'idea, gli antociani sono quelli che danno, ad esempio, il colore al vino rosso, che stanno sulla pelle, sulle bucce dell'uva. E come nell'uva ci possono essere antociani e carotenoidi nei fiori, nelle piante, nei frutti e delle foglie. E questo è uno dei motivi per cui si ha questo viraggio nei colori. Ed è importante anche sapere che, tu lo sapevi Anna Maria, che c'è il foliage. Il foliage, addirittura. C'è gente un pochino malata, come quelli che pittano le unghie ai cani, ma un po' meno in questo caso, che al posto di fare bird watching, si fanno dei viaggi astronomici per andare in America verso il Massachusetts, New Hampshire o nel Maine, per vedere il cambiamento dei colori e per fotografarli. Mm-hmm. Beh, questo lo farei, per esempio. Andare in questi posti particolari. Mm-hmm, certo. Bird watching? Non credo. Mm-hmm, ecco, no, se mi paghi il viaggio e la macchina fotografica, vengo con te. Ma secondo te, se io potessi, sarei qui? Ma volere potere, vuoi andare, vai. Hai ragione, mi piace questa filosofia. No, prossimo anno, Rosanna, partiamo tutte e due con le macchine fotografiche, come i giapponesi, e andiamo a fare le foto in America. No, a proposito di posti da guardare, qualche anno fa, per i miei 40 anni, avevo ricevuto il seguente regalo, un viaggio in mongolfiera che ho fatto in Francia, a sud di Parigi, ed era proprio il mese di novembre, ed era effettivamente il periodo dei colori autunnali, quindi soprattutto poi quando la mongolfiera non faceva andare più il gas, il combustibile, c'era questo silenzio incredibile sopra questi colori, quindi anche quella è un'esperienza che si potrebbe ripetere nel mio caso o fare, cioè un giro in mongolfiera sopra un campo, sopra una bella campagna autunnale. Vabbè, il regalo che hai ricevuto. Bel regalo. Lo metto nella mia wish list. metti per i tuoi 40 magari, sì, te lo fai regalare. Soprattutto per i miei 40. Beh, chiediti, sarà dato, vuoi la mongolfiera? Ma te ne diamo anche più di una. Soprattutto perché i miei 40 sono passati, soprattutto per quello. Possiamo rifesteggiarli ancora. Io festeggio sempre. Lo devi per forza sottolineare che i tuoi 40 sono passati, ma insomma, non c'era bisogno che lo dicessi. No, era giusto per puntualizzare il fatto che nessuno mi farà questo regalo. Vabbè, ovviamente. Comunque, sei ancora lontana dai 50, possiamo metterla così? Dai, sì, vendiamoci per 9. Vabbè. Vabbè, comunque, io penso, come dicevi tu, che forse sì, le persone sono un po' pazze, però per fare un viaggio in questi posti così speciali in autunno forse varrebbe la pena. Poi sì, come dice Alessandro, ci vuole lo sponsor, chi ti paga il viaggio e la macchinetta fotografica, ma insomma sono dettagli questi in fondo. Sono dei miseri dettagli. E io, cercando appunto quali erano i paesaggi autunnali, non so perché, ma sul web ho trovato molti posti del nord Italia. Non so se quelli del sud non ce li mettono questi posti, perché credo che l'autunno sia altrettanto bello nel sud, ma è come se non fossero così pubblicizzati. C'erano, che ne so, della Lombardia, Piemonte, Veneto, c'erano un sacco di percorsi, di luoghi segnalati, e invece non ne ho trovati nel sud. Invece ho trovato per la Sardegna che c'erano delle belle descrizioni di paesaggi autunnali, e penso appunto che la Sardegna, tutto sommato, senza arrivare nel Maine o nel Massachusetts, là magari sarebbe più facile andarci, e a parte appunto poi abbiamo visto altri posti che sono comunque altrettanto lontani. E appunto anche lì si parla di foliage, si vede che è proprio la moda di questo foliage. Tutti... Sì, direi che non bisogna andare per fino in America per vedere i foliage, cioè, è il nostro foliage nostrano, basta prendere un bel battello e arrivare in Sardegna, dove ci sono tutta una serie di castagni, di noci, di querce e di altri alberi che danno una meravigliosa parure di diversi colori. Ma io vorrei essere un pochino più concreta, ragazzi, basta che fate un giro nei parchi di Bruxelles, ci vuole molto, io sono andata ieri a fare una bella passeggiata e ci sono degli alberi favolosi, veramente favolosi, quindi facciamoci due passi e guardiamo che quello che abbiamo intorno. Non so se l'avete notato, non so da quanto tempo vivete a Bruxelles, ma succede questo, che sia quando fioriscono i ciliegi giapponesi, sia quando arriva l'autunno, a un certo punto arriva un ventaccio e finisce tutto. Ma io dico, questo vento non potrebbe aspettare un po'? Invece sembra che lo fa apposta, proprio quando c'è il massimo dei colori, di rosa ad aprile, o di colori autunnali in questo periodo. Tipo l'altra sera, sabato, a un certo punto c'è stato un forte vento, non so se dove eravate voi c'è stato, ma sembrava proprio fatto apposta per togliere tutte queste foglie, perché quest'anno, proprio perché l'autunno è mite, in un certo senso uno l'autunno se lo potrebbe godere ancora di più, perché le foglie sono rimaste più a lungo negli alberi, solo che non dovrebbe arrivare poi questo vento così impetuoso. Vabbè, non possiamo avere tutto. Vabbè, è così. In fondo viviamo qui in Belgio. Certo. Allora, io propongo un piccolissimo brano musicale e poi ci ritroviamo fra pochi minuti. E continuiamo a parlare di foliage e di colori, e poi dobbiamo scegliere il colore per questa trasmissione, o i colori eventualmente, se... perché Alessandro, devi sapere che noi associamo un colore a ogni trasmissione, qualche volta lo dimentichiamo, onestamente. Ah, in questo caso è facile, sai che c'è una differenza tra come gli uomini e le donne percepiscono i colori. Io credo Abbiamo... che ci sia una differenza di come percepiamo qualsiasi cosa. No, ma visto che il tema della trasmissione sono i colori, per un maschio c'è il bianco, il nero, il grigio, il rosso, il marrone, il verde e poco più altro. Forse posso arrivare all'ocra, perché mia figlia mi ha detto che esiste l'ocra, se no ultimamente non sapevo neanche l'esistenza di questo. Invece voi avete tutta una serie di Noi abbiamo sfumature, tutta una gamma. l'indaco, il con l'azzurro mariano, ma che diavolo di colori Il sono? rosa antico. È così. Prendeteli. Allora, sì, un piccolo brano musicale e poi ritorniamo veramente per le conclusioni di oggi. Eh Eccoci qua. sì, siamo proprio alla fine dei colori, quindi in conclusione, Anna Maria, io direi tutti i colori dell'autunno. Tutti i colori dell'autunno, sì. Sì, non è che possiamo No, scegliere il rosso no, no, no, o il marrone, no? Giallo, tutti. Tutti tutti, mettiamoceli tutti, tutti i colori caldi. i colori caldi dell'autunno. Allora, Alessandro, grazie di essere venuto. Ah, è stato veramente un piacere. Se tu vuoi tornare, naturalmente, visto che conosci bene Anna Maria, basta che glielo fai sapere. A noi ci fa piacere avere non solo una voce maschile, ma anche del Nord Italia, visto che qui siamo Eh sì, in piuttosto genere, centro-sud sì, io e te, esatto. quindi così anche cambia un po' la tonalità della voce. Beh, certo, Anna Maria deve continuare a pagarmi per venire qua, ma io lo farò con molto Certo. piacere, dietro appropriato compenso e adeguato. Beh, posso passare tutti i giorni col piattino e vedere chi mette il suo contributo. Per sentire la mia suadente voce, beh, certo, perché no? Va bene, allora, grazie a tutti i radioascoltatori. Come sapete, Radio Alma andrà, no, Radio Alma, i colori dell'anima ci saranno ancora lunedì dalle 21 alle 22 in diretta. Lunedì prossimo verranno Tiziana, Leandro e Rossella e quindi li salutiamo e noi ci risentiremo invece a dicembre, vero Anna Maria? I Sì, noi torniamo i primi di primi di dicembre. dicembre per stare ancora con voi. Grazie a tutti, buona Grazie serata. Grazie Alessandro. a te. Grazie a voi. Noi E Anna Maria, presto allora. Ciao ci rivediamo presto. ciao, buona Ciao. serata. Ciao, ciao.